giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La cerimonia principale in occasione del giorno della memoria a Trieste si celebrerà nella risiera di San Sabba domenica 28 gennaio. La data è stata posticipata per rispettare il sabato, giornata di riposo ebraica. Alla cerimonia, con le nuove disposizioni di sicurezza, potranno assistere 2200 persone. Giulio Regeni oggi avrebbe festeggiato il 36esimo compleanno. La mamma lo ricorda con l'immagine di una colomba gialla. Fincantieri ha chiuso l'anno con un portafoglio ordini di 22 miliardi, quindi 6 miliardi in più rispetto al 2022, la parte più consistente dei 6 miliardi di nuovi ordini per la cantieristica. La regione prevede incentivi per allungare i contratti a tempo determinato e aiutare così i giovani a rendersi indipendenti. Il sindacato dei medici AROI EMAC diffida l'Università di Trieste a richiedere i rimborsi agli specializzanti assunti a tempo determinato in corsia durante la pandemia tramite gli avvisi pubblici. La PETER con la presenza degli animali da affezione viene attivata anche dall'azienda sanitaria Friuli Centrale nei reparti di neuropsichiatria e nelle strutture per minori. Braccialetto elettronico, un triestino che nella notte di Capodanno ha aggredito con calci, pugni e morsi la propria compagna. Durante il ricovero la donna ha trovato il coraggio di denunciare altri episodi di violenza e maltrattamenti. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc per questa seconda edizione del giornale radio. In apertura le celebrazioni per il giorno della memoria, in cui si commemorano le vittime delle deportazioni e dei campi di sterminio, cade il 27 gennaio, ma quest'anno il 27 gennaio è sabato, giornata di riposo per gli ebrei, e quindi il comune di Trieste ha scelto di posticipare la celebrazione principale nella risiera di San Sabba a domenica 28 gennaio. Per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, il comune, assieme alle forze dell'ordine e alla prefettura, ha anche predisposto un nuovo piano di emergenza ed evacuazione. Alla cerimonia, nel monumento, potranno assistere fino a 2200 persone. Decine di persone rimaste fuori dalla risiera di San Sabba il 25 aprile dello scorso anno, un'immagine questa che non si dovrà più ripetere, ha detto l'assessore alla cultura del comune di Trieste Giorgio Rossi in apertura della conferenza stampa, nella quale è stato deciso di spiegare per tempo, in occasione della presentazione delle iniziative sulla giornata della memoria, il nuovo piano della sicurezza della risiera, campo di concentramento nazista, luogo di transito e uccisione di un gran numero di prigionieri politici e di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia del 27 gennaio, giorno della liberazione del lager di Auschwitz, che quest'anno però, cadendo di sabato, giorno di riposo per la tradizione ebraica, si terrà la domenica del 28 gennaio, potranno partecipare contemporaneamente 2200 persone. Lo scorso anno, quando emerse il problema, il numero venne ristretto a solo 600 persone. Ci sarà inoltre un contapersone visibile anche all'esterno, ha precisato il prefetto Pietro Signoriello. Finalmente la risiera di San Sabba ospiterà gli eventi nella più assoluta sicurezza, ha detto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Sono state infatti realizzate 3 nuove uscite d'emergenza con porte tagliafuoco che in caso di necessità permetteranno alle persone di evacuare in sicurezza. Finora abbiamo sempre agito in deroga, ha dichiarato il sindaco. Non era più possibile andare avanti così, ricordando anche come le tensioni internazionali, la guerra sulla striscia di Gaza in primis, abbiano anche alzato il livello di attenzione su questi eventi. Il 28 gennaio dunque la cerimonia inizierà alle ore 9 con la deposizione della corona d'alloro alla Polizia di Stato. Seguiranno la marcia silenziosa verso la stazione centrale a cura dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, e il pubblico potrà entrare in risiera a partire dalle ore 10:30. Alle ore 11 si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Udine presenterà invece domani le iniziative legate al giorno della memoria. Oggi Giulio Regeni, ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016, avrebbe compiuto 36 anni. A ricordarlo attraverso i social è la mamma Paola Defendi, che posta il dettaglio di una colomba gialla tratta da un'opera d'arte, accanto a una citazione dell'artista francese Fernand Léger: il colore è un bisogno umano come l'acqua e il fuoco, è una materia prima indispensabile alla vita. Fincantieri ha chiuso il 2023 con nuovi ordini per circa 6 miliardi di euro, una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente, portando il portafoglio totale a 22 miliardi. A dirlo è l'amministratore delegato Pier Roberto Folgero in un'intervista al Corriere della Sera, dove anticipa anche qualche numero del bilancio che verrà presentato a breve. Folgero specifica che per i 6 miliardi di nuovi ordini, 4 si riferiscono alla cantieristica, che comprende difesa e crociere, 1,5 all'offshore e alle navi da lavoro. Sul militare, invece, abbiamo portato a casa 6 ordini, ha detto Folgero. Importante, ha aggiunto, anche l'apposta del settore della subacquea, che apre un mercato potenzialmente da 400 miliardi a livello mondiale nei prossimi 6 anni. In Friuli Venezia Giulia, come nel resto del nord-est, i figli vanno via di casa in media dopo i 30 anni. Una delle cause principali è l'elevatissima precarizzazione del mondo del lavoro. La regione cerca di intervenire con incentivi per aumentare la durata dei contratti a tempo determinato. Gap di genere e gap generazionale sono i due fronti su cui lavora la regione: aumentare la presenza femminile sui posti di lavoro e parallelamente aumentare la presenza giovanile. Su quest'ultimo punto, per la prima volta, la regione ha deciso di intervenire in maniera strutturale sui contratti a tempo determinato, con incentivi ai datori di lavoro. Finora le politiche erano puntate sui contratti a tempo indeterminato, sulle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precari. Solo nell'immediato post-pandemia erano stati messi a punto interventi sui contratti a termine, servivano a rimettere in moto l'economia. Ora la scelta di intervenire sul tempo determinato. La presentazione degli interventi da parte dell'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen, affiancata da Carlos Corvino, direttore dell'Osservatorio regionale sul lavoro. In media un contratto di lavoro a termine dura 4 mesi, ma moltissimi sono quelli ancora più brevi. Questo genera incertezza nel futuro. Nella nostra regione, in media, i maschi vanno via dalla casa dei genitori a 35 anni, le donne a 29. Un problema legato alla precarietà del lavoro, quindi alla qualità dei rapporti di lavoro. L'obiettivo, tramite incentivi alle imprese, è di elevare la quantità di contratti che raggiunge e supera i 12 mesi. A disposizione per questo un fondo di 8 milioni di euro annuo. La brevità dei rapporti di lavoro incide dunque sui progetti di vita, sulla creazione di nuove famiglie, ma anche sulla formazione. In 2 o 3 mesi è impossibile acquisire una professionalità o una formazione qualificante. Trieste, Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sindacato dei medici AROI-EMAC ha diffidato l'Università di Trieste a richiedere il rimborso ai medici specializzanti delle somme loro corrisposte dall'Università a titolo di trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica nel periodo in cui tali specializzandi erano stati assunti a tempo determinato dall'azienda sanitaria Asugi per far fronte all'emergenza del Covid. Si tratta di richieste di somme che vanno dai 3.400 fino ai 14.000 euro. Il sindacato nella diffida specifica che gli specializzandi erano stati assunti tramite avvisi pubblici di selezione, rispondendo specificamente alle esigenze emergenziali derivanti dalla pandemia di Covid-19. Le richieste di rimborso inviate ai colleghi specializzandi impegnati nel corso della pandemia sono irricevibili e sono state rispedite al mittente grazie alla segnalazione e alla collaborazione di 2 medici coinvolti, sottolinea Alessandro Vergallo, presidente nazionale di AROI EMAC. È inoltre estremamente spiacevole che si richiedano indietro somme relative ad un periodo difficilissimo che ha richiesto ritmi di lavoro e sacrifici eccezionali, aggiunge. Inammissibile infine che oltre un mese di distanza dall'invio della nostra diffida non ci sia stata alcuna risposta. Sul caso è intervenuta anche la consigliera regionale di Civica FVG Simona Liguori. Non chiediamoci i motivi della carenza dei medici nella nostra regione se questo è il trattamento al quale sono sottoposti. La cronaca: prima ha morso la compagna su uno zigomo, poi più tardi l'ha buttata giù dal divano e colpita con calci, pugni e oggetti vari. Protagonista è un triestino di 28 anni contro il quale il giudice per le indagini preliminari ha emesso le misure del divieto di comunicazione e di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati e l'applicazione del braccialetto elettronico. La vicenda risale alla notte del 1° gennaio, quando in un locale di Trieste, dove la ragazza era con alcuni amici, l'uomo, nel corso di una lite per motivi sentimentali, la morsa sul volto procurandole un ematoma. A seguito di questo gesto, la donna ha deciso di tornare a casa da sola, ma nel corso della notte, una volta rincasato, il compagno l'ha scaraventata giù dal divano su cui si era addormentata e l'ha colpita con calci, pugni e oggetti, tra i quali un tablet e una bottiglia di vetro. Il 2 gennaio la donna è andata all'ospedale di Cattinara per ricevere le cure. Gli operatori sanitari, che hanno formulato una prognosi di 40 giorni, hanno segnalato la vicenda alla polizia, che ha interrogato la donna. Dai suoi racconti è emersa una grave situazione di maltrattamenti familiari che andava avanti da circa un anno, periodo durante il quale la donna era stata vittima di ingiurie, offese, minacce reiterate, violenze. Il compagno l'accusava di essere disadattata. Tre persone sono state ricoverate per un principio di intossicazione a causa di un incendio divampato nella loro abitazione di Tricesimo. L'allarme è scattato attorno a mezzanotte. La centrale operativa della SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico le tre persone, trasportate tutte in codice verde per precauzione all'ospedale di Udine. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme nel corso della notte. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alle cause dell'incendio. Un incidente ha coinvolto questa mattina due automobili a Pantianicco, lungo l'ex provinciale 52 all'altezza dell'incrocio con l'ex provinciale 101. Nell'incidente sono rimaste coinvolte sei persone. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Una delle persone coinvolte nello scontro è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni piuttosto serie ma stabile. Le altre persone sono state invece ricoverate in codice giallo. Le 12:42 è il tempo, nuvolosità variabile su tutta la regione, queste le temperature delle 11. Trieste e Udine 7,5 gradi, Gorizia e Pordenone 5,5 gradi, a Tolmezzo 2 gradi, a Forni di Sopra Tarvisio 1,5 grado, a Piancavallo -1,5 grado, a Sappada -4 gradi, sul Monte Lussari -4 gradi, sul Monte Zoncolan -4,5 gradi, sulla costa a Lignano 5 gradi e a Grado 5 gradi, e a Lignano 4,5 gradi. Le previsioni dell'ARPA FVG oggi pomeriggio: sulla fascia alpina e zone occidentali avremo bel tempo, sulle zone orientali, sulla costa e sulle prealpi Giulie cielo in prevalenza nuvolose per nubi basse che in sera tenderanno a dissolversi. Nella notte sulla costa soffierà bora moderata. E ora sentiamo il servizio sui nuovi interventi per aumentare la sicurezza sulla strada Cimpello Sequals. In prefettura Pordenone, Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i sindaci dei territori interessati, le forze dell'ordine, l'assessora regionale alle infrastrutture Mirante, un incontro dedicato alla sicurezza della Cimpello Sequals. Che cosa è stato deciso nel breve periodo e poi qual è la programmazione di più lungo periodo? Nel breve periodo, oltre all'installazione di due autovelox fissi posizionati, uno più a sud verso Zoppola e uno più a nord verso Spilimbergo, è stato deciso di inserire una segnaletica sperimentale centrale, ovvero una riga a centrostrada dove non è possibile sorpassare, che fa rumore nel momento in cui viene toccata dall'automobile. E poi un rinforzo della segnaletica verticale, inserendo anche dei lampeggianti nei punti che sono stati riscontrati più pericolosi, in modo tale da avvisare l'automobilista che in quel punto bisogna rallentare e non sorpassare. Nel lungo periodo invece stiamo ragionando per portare la strada a doppia corsia per senso di marcia, almeno per alcuni tratti, questo per consentire il sorpasso dei mezzi più lenti, in modo tale da evitare appunto la pericolosità non solo dell'elevata velocità, che può essere contrastata da controlli da velox, ma dei sorpassi nei punti in cui adesso non è possibile farlo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli animali, lo dicono molti studi scientifici, sono dei veri e propri calmanti che permettono l'abbassamento della pressione e dei livelli di ansia. La pet therapy, non a caso, è sempre più diffusa e ora sarà attivata anche dall'azienda sanitaria Friuli Centrale in ambiti come le strutture minori e la famiglia, le strutture minori e famiglia e la neuropsichiatria infantile. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale introduce un progetto di pet therapy o terapia con gli animali. Dedicata ai minori, sarà introdotta sia nella fase acuta di una patologia nei reparti di pediatria, sia in fase riabilitativa o di mantenimento nei distretti del territorio. È stato dimostrato che il legame uomo-animale sia terapeutico e funzionale al recupero psicofisico della persona. Gli animali fanno da catalizzatori dell'attenzione, agenti calmanti che permettono l'abbassamento della pressione, dei livelli d'ansia, dando impulso alla ricerca di legami sociali e aumentando il senso di fiducia in sé e negli altri. Il progetto, presentato in conferenza stampa in ospedale, sarà attivato nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare a Palma Nova e Udine e per i ricoveri delle pediatrie ospedaliere di Udine, Latisana, San Daniele e Tolmezzo. Tra i servizi individuati, anche le strutture minori e famiglie e la neuropsichiatria infantile. Ogni bambino avrà obiettivi personalizzati all'interno del progetto terapeutico che si accompagnano ad obiettivi generali. Tra questi il miglioramento delle capacità comunicative con riduzione di comportamenti sociali disfunzionali. Interessati anche i casi di disturbi della coordinazione motoria. L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione Gruppo Pittini, partnership pubblico-privato che replica un partenariato del 2020 quando la Fondazione aveva donato un'ambulanza equipaggiata con unità mobile di rianimazione e del 2022 con la donazione di un sequenziatore per il laboratorio di diagnostica molecolare. I costi del progetto saranno interamente coperti dalla Fondazione Gruppo Pittini. In una prima fase della durata di 12 mesi, l'obiettivo è di coinvolgere un centinaio di utenti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nella sede della Confcommercio di Trieste questa mattina, cerimonia di consegna del ricavato della serata Buon Anno Trieste, andato in scena a Rossetti per l'Epifania. Alle associazioni Maruzza FVG e Baskin dell'Interclub Muggia. L'associazione Maruzza FVG si occupa della promozione delle cure palliative pediatriche e fornisce supporto sociosanitario e psicologico alle famiglie grazie anche ad un'equipe di medici dell'IRCS Burlo Garofolo. Il ricavato dello spettacolo, 6.500 euro, supporterà la campagna Io Dono, un giorno di sollievo che assicura ai familiari di prendersi alcune ore di riposo e fruire dei rapporti interpersonali. Il secondo sodalizio beneficiario al quale il presidente della Confcommercio Antonio Paoletti ha consegnato l'altro assegno di 6.500 euro è invece Baskin Interclub Muggia. Consente ai diversamente abili di qualsiasi età di giocare in un unico team nei vari tornei e competizioni che vengono organizzati a livello locale. Il Baskin, che costituisce una preziosa opportunità di relazione e confronto fra i componenti delle squadre e il loro parenti. Per il programma Buongiorno Regione, questa mattina siamo entrati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste e abbiamo visto come vengono assistiti i neonati prematuri. Sentiamo. Ogni anno per il reparto di terapia intensiva del Burlo Garofolo di Trieste passano circa 250 famiglie con i loro bambini nati prima del termine. La responsabile del reparto, la dottoressa Laura Travan. A me non piace definire i prematuri fragili, perché sono tutt'altro che fragili. Sono bambini che stanno con noi anche mesi, un mese, due mesi, tre mesi, perché nascono appunto molto piccoli. Abbiamo delle belle storie da raccontare, dei bambini che nascono di 500 grammi. La scorsa settimana abbiamo dimesso la piccola Nives, 575 grammi alla nascita, 1,9 kg quasi alla dimissione. Ma nella terapia intensiva arrivano anche altri neonati. Ci sono anche bambini per cui la transizione dalla pancia della mamma alla vita che noi intendiamo la vita comune, è stata più difficile, quindi i bambini che magari hanno malformazioni o quadri che richiedono appunto l'intervento di professionisti, di medici, di infermiere, ma anche talvolta dei colleghi chirurghi che hanno bisogno di correggere quello che magari la natura non era riuscita a fare perfettamente. In più abbiamo i bambini del primo mese di vita, per esempio quelli, e siamo proprio nella stagione giusta, che hanno un'infezione respiratoria, una bronchiolite, un problema di polmonite, per cui hanno bisogno di un supporto respiratorio. Per i genitori dei bambini nati termine, l'associazione Scricciolo mette a disposizione una psicologa e per chi arriva da fuori Trieste due case dove dormire nel tempo del ricovero. I bambini vengono seguiti anche dopo le dimissioni. La presidente dell'associazione Serena Bontempi. I bambini quando rientrano in casa, i genitori quando rientrano in casa vivono delle situazioni particolari. Dopo essere stati molti mesi, molte settimane all'interno del reparto, alle volte andare a casa è bello, però può essere complicato. Quindi noi abbiamo un team di esperti, psicologi, professionisti della fisioterapia che possono seguire le nostre famiglie anche nel momento delle dimissioni. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dedicato a Giorgio Perlasca, un giusto tra le nazioni per aver salvato oltre 5.000 ebrei ungheresi, il monologo che va in scena oggi e domani al Miela di Trieste. A interpretare Perlasca Alessandro Albertin, che ha anche scritto lo spettacolo che si intitola Il coraggio di dire no. Sentiamolo. Il coraggio di dire no, prima di tutto, a quello che era diventato ormai il fascismo, corrente politica alla quale lui aveva aderito con grande convinzione, al punto tale da fare come volontario la guerra civile di Spagna. Poi con le leggi razziali e l'alleanza con Hitler lui ha in un attimo detto basta, io non mi ritrovo più in questa concezione politica, e di conseguenza si è trovato quindi da un giorno all'altro praticamente ricercato dai tedeschi a Budapest, proprio perché aveva deciso di non aderire alla Repubblica di Salò. In questa avventura ungherese è appunto reso responsabile della salvezza di almeno 5.200 persone, arrivando a quello che è stato probabilmente il gesto di lucida follia, come ho sentito più volte dire da suo figlio, di essersi cioè spacciato per console di Spagna quando non era né un diplomatico e men che meno spagnolo. E lei ovviamente ha studiato questa figura di Giorgio Perlasca. Anche il fatto che non ne abbia parlato con nessuno, probabilmente tranne che con i suoi familiari, perché solo negli anni Ottanta si scopre appunto di quest'opera che lui ha fatto, perché ci sono delle donne ungheresi che cercano questo console spagnolo. Sì, beh, questa è la caratteristica dei giusti, come diceva un altro grande giusto italiano, Gino Bartali, il bene si fa e non si dice, e certe medaglie si appendono all'anima e non alla giacca. Se non ci fossero stati questi signori, questa coppia di ebrei ungheresi, probabilmente la sua sarebbe una storia che sarebbe emersa postuma come centinaia e centinaia di altre storie simili, perché comunque lui aveva un diario, quindi prima o poi, dopo la sua morte, la storia sarebbe emersa. Lo sport. L'Udinese ha pareggiato 2-2 sul campo della Fiorentina. Un punto guadagnato, ma rimane l'amaro in bocca per l'opportunità sfumata. Il punto è guadagnato perché è quello che fa stare con i piedi fuori dalla palude della zona retrocessione, e alla fine Bonaventura fa tremare il palo e i tifosi friulani al Franchi, ma la squadra di Cioffi contro la Viola ha fatto la lepre e ancora una volta si è fatta prendere, colpa di un fallo di mano di Ferreira tanto evidente da non dover forse scomodare il VAR e di qualche occasione del raddoppio sprecata nel primo tempo. Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese. Non è facile presentarsi al Franchi contro una Fiorentina che è una grande squadra, che è in un momento estremamente positivo, e fare la partita, lo dico con rispetto, non in termini di gioco ma in termini di occasione da gol, essere determinati, chiudere gli spazi a una squadra estremamente scomoda e di grande qualità. Il pareggio dell'Udinese è il 12° in campionato, sempre più record anche nei 5 maggiori campionati europei. Importa che i bianconeri conquistano il 4° risultato utile in 5 gare, 3 pari, una vittoria e una sconfitta. La squadra sta bene, ma non basta. Per l'obiettivo salvezza servono le vittorie in casa e subire meno gol. 19 con Cioffi in panchina, 1,7 a partita. L'acquisto di gennaio sembra, per ora, Samardžić. Lazar è stato bravo perché ha lavorato sempre forte, aspettato la sua occasione, e il lavoro che ha fatto, la cattiveria che ha accumulato, la rabbia che in queste settimane è stata il suo motore, è venuta fuori con una partita secondo me più che buona. È vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non sta a me deciderlo, ma finché resta e si allena forte ha possibilità di giocare. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallavolo, la CDA Talmassons vince in casa contro la Sirdeco Pescara 3-0. Primo set al via con la CDA Talmassons che fa subito valere le proprie armi, muro vincente per segnare il primo grande vantaggio. 10-6, un vantaggio che mantiene fino alla fine del set che chiude 25-15. Le pescaresi tentano di reagire, ma le padrone di casa non si lasciano sfuggire alcuna occasione per fare punto e chiudono il secondo 25-14. Il terzo set, seppure più equilibrato, finisce 25-18 e le friulane conquistano 3 punti in classifica. Ora le attende la sfida contro Brescia per chiudere la prima fase del campionato, in attesa di sapere il calendario del pool promozione. Con la partecipazione di oltre 400 atleti del settore giovanile, categorie esordienti, ragazzi e cadetti, è andato in scena il primo appuntamento regionale della Federazione di Atletica di Cross, organizzato dalla locale società Libertas Casarsa. Vincitori della Cross Cadetti di 2100 metri sono stati Giacomo Francescutto della Libertas Casarta, secondo è arrivato Marco Freschi della Dolomiti Friulane e terzo Gabriele Corradini dell'Atletica Monfalcone. Per le cadette, prima Clarissa Sbrizzai dell'Atletica Iulia, seconda Rebecca Prodan della San Vitese, terza Cristina Treu della Malignani Libertas. E questo è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Letti, Gennada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Samantha Sgon. Da tutti noi una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.